I miei fratelli stanno in bolla, Crystal Ball, succo di zenzero e mi gonfia. Bolle blu, rosa, verdi, sto fumando Kush, non fumo Crystal Meth. Bolle dal naso, baby, vacci piano. Sto dentro a una bolla, ma non è di sapone. Questi si pensano di sapere. Succo di zenzero, ma non si beve. Baby, vacci piano. Bolle, bolle, bolle dal naso. Sto dentro una bolla, ma non è di sapone. Questi si pensano di sapere. Succo di zenzero, ma non si beve. Bolle, bolle, bolle. Bevi, vacci piano. Vacci, vacci. Che pensi di sapere? Di sapere. Non sai quanti siamo. Quanti siamo. Nel fondo del bicchiere. Del bicchiere. Bevi, vacci piano. Vacci piano. Che pensi di sapere? Di sapere. Non sai quanti siamo. Bolle nella testa, bolle dal naso. Sto dentro a una bolla, ma non è di sapone. Questi si pensano di sapere. Succo di zenzero, ma non si beve. Sto dentro a una bolla, ma non è di sapone. Questi si pensano di sapere. Succo di zenzero, ma non si beve. Bolle, bolle, bolle. Pensano di sapere, succo di zenzero ma non si beve. Sto dentro una bolla ma non è di sapone. Questi si pensano di sapere, succo di zenzero ma non si beve. Bolle.